E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, Radio Città del Capo, un saluto da Elisio Scarpa e anche da Max Macchi, anche se assente, un saluto anche da parte lui, virtuale, così tanto per creare l'atmosfera abbastanza allucinante comunque all'interno di questa sala di registrazione e di regia, perché al di là dell'aria condizionata si muore comunque dal caldo, è stato sicuramente un azzardo da questo punto di vista, ma speriamo di sviluppare un bel percorso musicale, almeno per me che sto conducendo, ma anche per gli ascoltatori che sono in ascolto. 451 frammenti sonori è ripartito attraverso il brano, lo splendido brano di chiusura dell'album 100 uscito nel 2009 del grande David Cunningham. Avevamo mandato alla fine della prima parte di 451, ma purtroppo è stato brutalmente tranciato dall'ingresso del Radio Giornale di Popolare Network, dunque abbiamo voluto ripartire dall'inizio per non essere così cattivi nei confronti di Cunningham. Il percorso sonoro che abbiamo sviluppato nella prima parte della trasmissione dedicata a questo particolare viaggio musicale che abbiamo voluto intitolare Abstract Jazz attraverso David Berman, Bobby Previte, Aidan Baker e David Cunningham, la prima parte. La seconda parte partirà con un personaggio assolutamente eclettico e impossibile dal punto di vista musicale o concettuale, personaggio che ha veramente travalicato ogni confine musicale, sperimentando a tutto tondo, attraversando soul, jazz, rock, elettronica, ambient. Sempre però con un piglio estremamente sperimentale e innovativo dal punto di vista appunto concettuale, soprattutto per questo suo divertimento costruito attraverso una sorta di taglia e cuce, una sorta di costruzione attraverso quasi un'idea di un Frankenstein musicale, musicista assolutamente poliedrico e portabandiera anche del movimento transgender, Tertelmitz, che anche un paio di trasmissioni fa avevamo inserito attraverso uno splendido album che è stato l'album poi d'esordio Tranquilizer, e invece andremo adesso a pescare all'interno di questa idea astratta di un jazz abstract jazz, un jazz rarefatto, un jazz assolutamente fuori, quasi indefinibile dal punto di vista sonoro, attraverso uno splendido lavoro che è uscito nel 1995, Soil, dove Tertelmitz lavora soprattutto su un piano elettronico ambientale, ma che attraverso queste sue sperimentazioni inserisce anche una rarefazione, un linguaggio jazzistico che assume una forma assolutamente assurda. Il brano poi in questione, dall'album Soil, ripeto, del 1995, album uscito per la Instinct, considerato uno dei migliori lavori in assoluto di Tertelmitz, si sente appunto questa linea con una sorta di Rhodes, un simile Rhodes elettronico che lavora attraverso delle note che ricordano anche certe atmosfere legate al jazz psichedelico e jazz elettrico degli anni 60-70, una dimensione e un'atmosfera magica, però dove sotto, proprio in sottotraccia, si sente un eco di musiche latinoamericane improponibili. Tertelmitz ha lavorato molto e lavora ancora adesso moltissimo anche nei suoi DJ set, con il trash, con i suoni assolutamente assurdi e impossibili, inseriti poi in contesti che sembrano appunto distantissimi, e crea però sempre questo effetto assolutamente geniale e particolare anche a livello sonoro. All'inizio sembra disturbante questo sottotraccia di questa sorta di festa latinoamericana, ma in realtà poi l'effetto complessivo alla fine del brano è assolutamente straniante, e questa astrazione, questa rarefazione, questa sorta di lontananza e di distanza un po' da tutto viene espressa da Telmiz e aprirà appunto la seconda parte di questa trasmissione, che sarà assolutamente strana e abbastanza quasi inqualificabile, ma va bene così per la giornata di oggi, per il percorso sonoro di questa serata. Abstract Jazz, Tertelmitz, Soil, buon ascolto. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato anche questo splendido lavoro di Eleanor, Between Black Cloud Masses. Questo è l'album di riferimento che abbiamo inserito mixandolo con il lavoro precedente di Tertelmitz. Splendido lavoro veramente di questa formazione che ormai ha sicuramente segnato in termini di importanza anche chiaramente tutti gli anni zero in termini di sperimentazione. Si tratta ovviamente di un super gruppo, potremmo dire, anche perché chiaramente sono presenti anche i membri del duo americano. Sanò, il metal drone e le sperimentazioni assolutamente avanzate di questa formazione, che appunto vede la presenza di Stephen O'Malley, Vincent De Rugin e anche Daniel O'Sullivan in particolare. Dunque, insomma, formazione di non poco conto. Formazione che abbiamo voluto appunto coniugare con il lavoro sonoro di Tertelmitz, splendidamente realizzato questo disco nel 95. Facciamo un salto storico anche abbastanza notevole. Passiamo dal 95 al 2008 con questo album Betimes Black Cloud Masses per la VHF, dove appunto atmosfere di un ambient piuttosto scuro, questo anche aspetto rumoristico presentissimo anche negli album successivi, un suono sicuramente molto orticante, duro, granuloso, ma anche estremamente ispido e piuttosto irritante come aspetto sonoro, dunque di grande impatto, e dentro queste atmosfere emerge comunque questo aspetto jazzistico piuttosto anomalo, inserito all'interno di questo contesto, crea sicuramente un suono interessante anche all'interno del flusso sonoro di questa serata, adatto soprattutto a coniugarsi con Tertelmitz per l'atmosfera sonora creata dall'artista newyorkese e anche vicino al prossimo autore, che è Christopher Tree, autore non particolarmente prolifico in termini di produzioni musicali. Ha realizzato ben poche cose, soprattutto home recording, registrazioni autoprodotte, e in particolar modo però ha fatto uscire un album che è un lavoro estremamente interessante a livello sonoro dentro la Cattedrale di San John, dunque dentro una chiesa importante dove è stato appunto registrato l'aspetto sonoro creato soprattutto dagli aspetti percussivi, dei suoni anche utilizzati da strumenti tradizionali, anche se manipolati poi concretamente da Christopher Tree. Parliamo appunto di questo autore, registrazione oltretutto realizzata esattamente 10 anni fa, appunto, crea l'autore, questo musicista, un suono sicuramente affascinante, dove l'aspetto anche dell'astrazione è presentissimo dall'inizio alla fine in tutte le sue elaborazioni. La cosa anche interessante dal punto di vista concettuale è questo lavoro di trasformazione sonora sia degli strumenti percussivi o i fiati utilizzati con strumenti tradizionali da tutte le parti del mondo, soprattutto però strumenti a fiato anche piuttosto antichi, utilizzati da popolazioni del Medio Oriente e anche dalla parte dell'Estremo Oriente, e Christopher Tree li manipola anche dal punto di vista sonoro, utilizzando dunque sia un aspetto elettroacustico e ambientale sonoro per l'utilizzazione della cattedrale, dunque una chiesa, uno spazio sonoro estremamente ampio dove il suono ha dei riverberi molto particolari, utilizzando però in questa sorta di dialettica sonora tra strumenti elettroacustici e ambientazione sonora, ambiente, anche strumentazioni elettroniche per filtrare, modificare i suoni, e utilizzando dunque un aspetto di interazione continua, una sorta di session live che è stata registrata in 6 parti in questo splendido lavoro. Ce l'andiamo a sentire e aprirà un altro flusso all'interno dell'astrazione che proviamo a mettere in campo stasera. Buon ascolto. Thank you. Thank you. E siamo ritornati in diretta dopo aver sentito questo mix tra Christopher Trida's Postnanian Sound, Adrian Klumps e Shod Abad in The Bed We Trust, album uscito nel 2009, autori questi presenti, parliamo soprattutto di Adrian Klumps. Shod Abad ha lavorato e ha collaborato con questa formazione che è piuttosto conosciuta nell'ambito musicale internazionale, formazione assolutamente interessante sulla scena musicale internazionale, soprattutto dal punto di vista delle sperimentazioni più legate all'aspetto jazzistico, ma non dobbiamo comunque dimenticare anche da parte dei Triosk, se no non vi dirò mai il nome, continua a girare, però appunto voglio dare anche una definizione adatta e una spiegazione anche dei percorsi sonori di questa formazione che abbiamo adesso inserito come formazione, possiamo dire, di chiusura di questo flusso sonoro attuale. E a questo punto Triosk può essere definita una delle formazioni sul piano della sperimentazione tra jazz, ambient e anche in alcuni momenti aspetti più squisitamente rumoristi, e anche è importante ricordare le dimensioni psichedeliche di questa formazione, è sicuramente una delle formazioni più importanti su questo percorso sonoro, su questa strada di sperimentazione che questa formazione ha intrapreso. Triosk è nata negli anni zero, ha portato avanti un percorso di una decina d'anni circa, è un trio tecnicamente ambiente molto preparato che esce da ambienti jazzistici, ma anche legati al post rock e appunto alla dimensione più ambient elettronica, formazione che credo non sia ancora passata attraverso 451, ma potrei francamente anche sbagliarmi, proprio composta da Adrian Clamps, che abbiamo sentito in un album invece, insieme a Shodaman in conclusione del mix con Christopher Free in precedenza. Invece, appunto, oltre ad Adrian Clamps, che è il pianista, troviamo il bassista Ben Wapes e il batterista Lawrence Pack, e anche collaborazione appunto con lo stesso autore presente nell'album che abbiamo appena sentito e anche altri musicisti della scena musicale australiana. Formazione appunto molto interessante che ha esordito con l'album 1 3 più 1, 2 del 2003 per la Scape. E adesso invece ci andiamo a sentire, proprio in chiusura del nostro percorso sonoro, l'album dei Triosk Moment Returns, uscito nel 2004 per la Leaf. Andiamo ad ascoltare tre tracce assolutamente splendide da questo album per chiudere il percorso sonoro di 451, anche di questa serata torrida dentro lo studio, ma effettivamente fuori si sta decentemente. Un saluto da 451 Frammenti Sonori, sicuramente per il rientro completo in tutti i ranghi. Partiremo per la stagione 2012-2013 sicuramente tra la fine di settembre e inizio ottobre, e ci risentiremo ovviamente tra un paio di mesi. Per coloro che sono interessati a riascoltare o a andare anche a trovare le informazioni per le vecchie trasmissioni, tra cui anche quest'ultima, sicuramente tra una decina di giorni dovremo completare il quadro dell'inserimento di tutte le trasmissioni che abbiamo costruito negli ultimi mesi, e ovviamente potrete scaricare in podcast gli MP3 delle parti registrate della trasmissione se siete interessati. Il sito è sempre 451 frammentisonori.noblogs.org. Una buona notte, vi lascio dunque con Triosk. Chissà se ho fatto una presentazione lucida, dato il caldo allucinante dentro lo studio. Bah, speriamo. Buonanotte e a risentirci, chissà, vi sentirò, bah, sentirete forse me a fine settembre, inizio ottobre, insieme a Max Macchia per la nuova stagione. Buonanotte.